Guardando, ma... Guardi, se non lo vedi. Vedi che qua... Guardate, così che ho detto una volta che mi ha fatto un regalo.